Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuovo appuntamento con il mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallin. La scuola che si intreccia anche con la società, in che modo lo capiremo grazie a Alessandra Fardin, presidente dell'associazione Vive la Cittadinanza, che ritroviamo con piacere, bentornata. Grazie dell'invito e ben ritrovati i nostri ascoltatori. Dunque, rapporti tra scuola e società. Sembrerebbe una cosa scontata, perché la scuola fa parte della società, chi vi partecipa come alunno, come insegnante, come personale amministrativo è componente della società, però c'è un rapporto che cercheremo di spiegare con lei, appunto, tra l'istituzione scuola e le altre istituzioni, o pubbliche oppure enti, associazioni culturali. Partiamo un po' dal contesto. Le mie desidero permettere saranno delle osservazioni, delle riflessioni che ci possono aiutare in questo momento ad analizzare e a mettere a fuoco alcuni degli aspetti che riguardano questa, che è una tematica molto vasta. Partendo infatti dal contesto, credo sia importante inserire le riflessioni che seguiranno nel contesto in cui oggi ci troviamo ad operare come educatori, in particolare nella veste di responsabile anche di un'associazione di promozione sociale come è la nostra Vivere la Cittadinanza. E infatti la grave crisi socio-economica ha avuto inevitabili ricadute anche nel campo della gestione delle risorse dedicate all'educazione. Gli ambiti di libertà che le nuove tecnologie comportano, la complessità della tematica dei diritti umani e altri ambiti che riguardano la sostenibilità applicata ad esempio al comparto produttivo, ma anche al cibo, le energie alternative, le cosiddette energie politiche e altro ancora, ci aprono sfide educative impellenti. In merito poi ai diritti umani e le tematiche ad esso connesse, lo possiamo vedere che all'interno dei forti movimenti migratori in atto, non solo nel nostro Mediterraneo ma a livello mondiale, e questi ci richiedono in modo pressante lo studio delle problematiche della pedagogia interculturale e in particolare il nostro diretto contatto con le problematiche della terra di Sicilia ci hanno portato ad affrontare fra gli altri temi le responsabilità sociali ed educative nei confronti degli immigrati e degli rifugiati. Di fondo si evidenzia quindi proprio l'importanza di predisporre per gli appartenenti alle culture minoritarie ed emarginate non solo lavori dignitosi, che è già un grande problema in questo momento storico, ma anche e soprattutto itinerari di apprendimento e formazione che siano utili a potenziare la qualità del loro capitale umano. E questo è un problema non solo a livello nazionale ma europeo, al fine di agire verso la promozione di relazioni ed evitare le derive provenienti dall'esclusione sociale. Ecco, in questo senso quale può essere allora il ruolo della scuola? Sì, allora proprio nell'ambito di questa società che è caratterizzata sempre più marcatamente da dinamiche multiculturali, la scuola continua a rappresentare un momento significativo nell'opera di formazione delle generazioni. D'altro canto però, come è noto ad esempio da parte delle imprese, quindi da parte di enti esterni alla scuola, le imprese, dicevo, che deluse dal disinteresse a volte manifestato dalla scuola per il mondo della produzione, sono oggi sempre più tentate ad attivare canali formativi propri. E qui ci poniamo il problema se la formazione educativa della scuola può avere momenti in comune e interagire con l'opera di formazione espletata dal mondo del lavoro, o dobbiamo dare per scontato che le due realtà siano destinate a procedere in modo autonomo? Quindi, quali rapporti immaginare tra scuole e formazioni sociali? Non c'è dubbio che la scuola debba ormai fare i conti con la chiamiamo così una concorrenza sempre più massiccia da parte delle altre agenzie educative, anche se è un termine improprio. E a questo proposito ritengo sia utile sottolineare che nel rapporto fra le diverse agenzie educative è valido sottolineare un approccio che sia attento al bene delle persone, che va di pari passo con il bene sociale, al cui interno vi possiamo leggere una dimensione sia morale che culturale che civile, e che non possono e non devono essere mortificate rispetto alle pure impellenti esigenze economiche e della produzione, ma vanno valorizzati i principi che ci portano ad includere piuttosto che ad escludere. Qual è allora il compito della scuola e delle altre agenzie educative? La questione, a nostro avviso, verte su un fatto. Cioè, se dobbiamo accettare come fatto ineluttabile che ciascuna agenzia educativa elabori e proponga il proprio itinerario educativo in maniera assolutamente indipendente? La nostra riflessione ci porta piuttosto a pensare ad un progetto educativo coordinato, in cui ognuno, per le proprie competenze e specificità, possa espletare in modo coerente fra le diverse formazioni sociali e queste, tra l'altro, in conformità con le direttive europee. E quindi cominciamo ora un attimino a anticipare quello che diremo poi nella seconda parte, quindi scendiamo un attimo nel dettaglio e analizziamo alcuni punti che riguardano una particolare fonte informativa e formativa alternativa alla scuola. Parliamo delle comunicazioni di massa, che tramite la diffusione delle nuove tecnologie occupa sicuramente uno dei primi posti come diffusione delle comunicazioni. I nuovi mezzi tecnologici sono da intendersi solo come apporti negativi o l'avvento della medialità può arrecare alla scuola contributi sul piano della messa a punto non solo di nuove forme della didattica, ma addirittura di nuovi strumenti di formazione per la personalità degli studenti? Ecco, bisogna tenere presente che l'educazione non attiene solo all'istruzione o alla formazione al lavoro, entrambe cause importanti di sviluppo, ma alla formazione completa della persona, quindi conseguentemente bisogna sapere bene chi è la persona umana. È necessario conoscerne la natura. E lasciamo, diciamo, da parte in questo momento tutte le riflessioni in merito alla visione relativistica della persona umana che ci porterebbero un po' fuori dal tema odierno e forse potrebbe portare a una visione riduttiva anche della formazione umana che invece necessita di mezzi economici e tecnici, ma non solo di mezzi economici e tecnici, ma anche di vie pedagogiche che assecondino la piena realizzazione umana. La questione, la grande questione, quindi, si aggira intorno alla riflessione su un nuovo umanesimo che sappia fare tesoro della crisi economica e morale che stiamo vivendo per farne un'occasione per umanizzare il nostro tempo. Su questo ci illumina fortemente Caritas in Veritate. Un documento che va letto e proprio su questi temi, a partire proprio dalla tecnologia, ci ritroviamo tra pochissimo. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Particolare, non dimentica. dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme ad Alessandra Fardin, Vivere la cittadinanza, associazione che abbiamo già incontrato più volte nel nostro percorso annuale dal mondo della scuola. Parlavamo e stiamo parlando della connessione dei rapporti tra scuola e società, intesa come istituzioni pubbliche, enti sociali, un contesto che ci ha fatto prima la dottoressa Fardin piuttosto ampio, complesso, come è complesso chiaramente il tema. Noi cerchiamo di snocciolarlo, andando ad approfondire adesso alcuni aspetti anche sulla scorta di quella che è stata in questi anni la vostra esperienza. L'educazione, come dicevamo, si trova oggi ad affrontare un compito estremamente complesso, quello di contribuire alla costruzione di una società in via di globalizzazione. Si tratta di favorire lo sviluppo umano integrale in tutti i contesti, con un quadro di valori condivisi e con una pluralità di soggetti. Questo non può essere delegato solo alla famiglia e alla scuola, anche perché oggi assistiamo alla frantumazione del nucleo familiare e spesso è spesso questo una realtà nei paesi sia in via di sviluppo ma non solo, e quindi ne consegue una precaria cura verso l'educazione dei bambini, anche in contesti quindi occidentali, dove la disgregazione familiare è più recente. D'altro lato la scuola registra il permanere di differenze importanti tra gli alunni, differenze cognitive, motivazionali, culturali, senza riuscire a fronteggiare un problema, minando così il diritto fondamentale all'educazione di base per tutti. Ecco, io oggi ho evidenziato alcuni aspetti che secondo me sono importanti. Quindi primo riterrei la posizione che abbiamo nei confronti della tecnica. Nella tecnica si esprime e si conferma la signoria dello spirito sulla materia, così si legge nel convegno scolaire del 2011. La tecnica permette di dominare la materia, di ridurre i rischi, di risparmiare fatica, di migliorare le condizioni di vita. Essa risponde alla stessa vocazione del lavoro umano. Nella tecnica e nelle nuove tecnologie, viste come un'opera dell'ingegno umano, l'uomo riconosce se stesso e realizza la propria umanità. La tecnica è l'aspetto oggettivo dell'agire umano, la cui origine e ragione d'essere sta però nell'elemento soggettivo, e cioè è l'uomo che opera. Per questo la tecnica non è mai solo tecnica, essa manifesta l'uomo che e le sue aspirazioni allo sviluppo, esprime la tensione all'animo umano, al graduale superamento di certi condizionamenti materiali, ma la tecnica non è fine a se stessa. Quello che si vuole qui evidenziare, possiamo esprimerlo dicendo che non bisogna assecondare la tentazione che se una cosa è fattibile, e solo per il fatto che è fattibile, vada bene farla. Perché possiamo portare alcuni esempi di armi sempre più sofisticate che uccidono solo componente umana senza rovinare l'ambiente, certi interventi di bioingegneria e così via. Un altro aspetto molto importante riguarda la globalizzazione, e a questo proposito possiamo dire che elementi che fanno parte della globalizzazione sono la finanza, le comunicazioni, ma non i valori. Anzi, se guardiamo alle notizie pubblicate sui giornali, solidarietà, sussidiarietà, bene comune, sembrano non far parte del tessuto della nostra società o comunque non essere così presenti quotidianamente. Basti vedere il nostro atteggiamento verso i migranti. Ogni paese ricco è intento solo a respingerli. A livello comunitario si intende addirittura ad eludere il problema. Un altro aspetto importante è quello, a mio avviso, della relazione. Lo stesso fatto di usare il termine persona e non quello di individuo, oggi è assai più usuale anche in ambito non prettamente italiano ma più anglosassone, già dice qualcosa di specifico. Non siamo una monade isolata, ma un essere umano, donna e uomo, e siamo in perenne relazione gli uni con gli altri. Ed è questa una dimensione indispensabile. Direi che l'educazione è relazione in se stessa, e questa è una promessa proprio fra la relazione anche fra gli enti educativi. Non esiste educazione senza relazione, non nel senso che abbiamo bisogno d'aiuto degli altri, ma nel senso che ci realizziamo soltanto nella relazione. Possiamo poi anche aggiungere un altro fattore, che è quello della responsabilità. Un'altra parola chiave, infatti, a mio avviso, è proprio la responsabilità, che è la capacità di rispondere delle proprie azioni. E come diceva Paul Ricoeur, la responsabilità è la presa in carico del più fragile, espressione quanto mai pertinente per un processo educativo. e nuovi positivi sviluppi possono arrivare ad esempio anche a mio avviso dalla peer education, che consente ai giovani di imparare fra pari. Ma la parola responsabilità si collega anche al volontarismo, inteso come una non rassegnazione, una capacità di essere in qualche modo artefici al proprio destino. Ma responsabilità fa appello anche alla propria coscienza morale e quindi appunto all'epoca, all'etica, in modo che ciascuno possa orientare le proprie azioni secondo determinati criteri e, come dicevamo prima, secondo determinati valori. Un altro aspetto secondo me importante riguarda il dono. L'impressione è quello che l'economia pensi alla logica del più forte, non certo alla gratuità. E quando anni fa era venuto di moda parlare delle relazioni all'interno di grandi organizzazioni, si mirava più all'efficacia, forse a una macchina più oleata, con meno attriti, ma non, ma crediamo, alle relazioni ispirate alla gratuità, tipica della relazione umana autentica. Scopo dell'educazione è quello di indicare delle piste valide per arrivare alla felicità, e la felicità dipende anzitutto dalla qualità, ancora una volta, delle relazioni che riusciamo ad avere. E le relazioni non si impostano soprattutto o soltanto sul denaro. È evidente che ogni famiglia ha bisogno di denaro, ma non è il denaro che tiene insieme la famiglia nei suoi valori più profondi, sono i rapporti primari che vanno coltivati e ai quali è necessario educare i giovani con infinita pazienza, ma anche mostrando e soprattutto testimoniando il loro valore. Ecco perché è importante che essi possano crescere in una società in cui diversi enti si fanno promotori e diventano espressione di valori condivisi che possono sostenere i giovani nella loro crescita. Il dono mette insieme anche il concetto di gratuità che poi va contro le logiche della finanza, anche la generosità, la capacità di mettersi in gioco. Tecnica, globalizzazione, relazione, responsabilità, dono, questo è una panoramica che Alessandra Fardin ci ha fatto. Tra poco però entriamo invece nelle esperienze concrete che proprio l'associazione Vive la Cittadinanza ha proposto, mettendo insieme queste voci, cercando di coniugarle. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola con l'associazione Vivere la Cittadinanza, Alessandra Fardin. Abbiamo fatto un panorama, insomma, su un po' di concetti. Adesso arriviamo anche alla fase concreta, o meglio, quello che voi avete già concretizzato con diverse esperienze in questi anni. A microfoni spenti mi citava il progetto Fenix, Fenice, no? Non c'entra niente col teatro, credo, ma più con il mitologico uccello. Esatto, ecco, di cosa si tratta? Sì, questo progetto vorrei premettere che si collega un po' al sistema dei media, che contribuisce attraverso alla socializzazione informale, alla costruzione dell'identità, ma anche all'integrazione sociale delle generazioni digitali, con infatti numerosi fattori di rischio, dall'omologazione di modelli di riferimento alla strumentalizzazione commerciale ed altro. Quindi ecco, questo progetto Fenix ci consente invece di utilizzare il sistema dei media in modo propositivo e in modo educativo. È nato in Brasile, e in realtà questo non è un progetto che noi abbiamo applicato, ma che abbiamo conosciuto, di cui abbiamo riconosciuto l'effettivo e l'importante valore, e quindi ritengo giusto comunque citarlo. Dicevo, è nato in Brasile, e in un quartiere molto popolato e svantaggiato, è stato adattato a bambini in difficoltà anche in Italia. E questo perché? Perché bisogna fare un'altra premessa, che nella nostra scuola primaria alcuni dati dell'Istat ci dicono che circa il 20% degli alunni stranieri frequentano una classe inferiore a quella corrispondente alla loro età anagrafica. Ma se questo è il 20% relativo alla scuola primaria, diventa il 50% nella scuola secondaria di primo grado e il 72% nella scuola secondaria di secondo grado. Ciò sta a significare che l'unico problema non è solo legato all'alfabetizzazione linguistica, ma probabilmente influiscono sullo svantaggio sociale anche la distanza culturale e altri fattori. Quindi è importante, a nostro avviso, istituire delle pratiche, delle buone pratiche, che cerchino di aumentare la resilienza, i fattori di resilienza negli studenti, anche immigrati in Italia. Quindi questo progetto vede un approccio che prevede di incidere su alcune variabili emotive e affettive, come l'autostima, la motivazione e la prosocialità. Incide anche su fattori cognitivi come la capacità critica e la creatività. In sostanza vengono sviluppati dei programmi e dei laboratori informatici che danno dei continui feedback, sviluppando così l'autonomia e l'autovalutazione dello studente, incoraggiandolo al processo di apprendimento e prevedendo la ripetizione degli esercizi fino al raggiungimento del livello desiderato, consentono anche l'acquisizione dei concetti. Ma un altro progetto che ritengo giusto osservare ci viene anche dall'Ufficio Scolastico Regionale, è un progetto che si chiama Osservatorio di Cittadinanza e Costituzione, che è stato implementato qualche anno fa, in seguito anche alla legge relativa a cittadinanza e costituzione 169 del 2008. E questo progetto prevede di fornire una mappa di valori utili per esercitare la partecipazione attiva, l'azione consapevole e responsabile, al fine di avviare gli studenti all'esercizio della democrazia. E vede la connessione di famiglie attraverso forum regionali e provinciali e delle associazioni, tramite anche le associazioni dei genitori, la scuola e altri enti del territorio. Altre note importanti, queste sì che riguardano un po' la nostra associazione anche, ci hanno dimostrato l'apprezzamento verso le nostre attività, che ci è derivato da alcune istituzioni locali, le quali hanno sottolineato l'importanza fra la collaborazione tra istituzioni e società civile, appunto la nostra, come qualcosa di molto importante, perché nel nostro caso, ripeto, non c'è una situazione di conflittualità come a volte può succedere. Infatti non raramente si assiste a dei fatti che vedono sì propositiva la società civile, persone quindi pregne di entusiasmo e di purezza d'animo e di spirito, con tanta voglia di fare, che fanno delle proposte e danno contributi importanti, però talvolta in polemica con le istituzioni e quasi individuando nelle stesse istituzioni una delle componenti del disagio e della difficoltà in cui si trova. Ecco, questo non succede con la nostra associazione, infatti importante è per noi partire da una logica di collaborazione positiva, nel senso che entrambi, società civile e Stato, sono animati dalle stesse finalità nel perseguimento del miglioramento della situazione, al superamento delle difficoltà e all'aumento progressivo della legalità, ad esempio, e della democrazia presenti nel nostro Stato. Ecco, altri cenni ci derivano da altre istituzioni del territorio e dai loro amministratori, i quali ci citano la nostra associazione come un ente che ha una valenza ulteriore nel poter disporre delle attività che vengono proposte all'interno del mondo scolastico, e con mettendo in connessione un altro ente, che è quello delle aziende locali, le quali vogliono investire nel settore dei giovani, quindi in progetti che riguardano i giovani. E questo è stato affermato, si tratta di una giusta direzione ed è soprattutto ciò che risponde a un si deve in questo momento di particolare congettura sociale. Abbiamo potuto registrare commenti favorevoli anche quando trattiamo argomenti particolari come l'educazione alla legalità, argomento che trattiamo nel nostro evento denominato Play Music, e lo trattiamo partendo dalla musica che coinvolge sempre molto i nostri giovani. Per concludere vorrei fare due citazioni. In quanto per una educazione di qualità per tutti devono concorrere, a nostro avviso, in modo sinergico la scuola, la famiglia e le formazioni sociali, quindi le associazioni come le comunità intermedie, costruendo quindi reti di relazioni anche transnazionali, ispirate ai principi di sussidiarietà e animate dalla solidarietà, che si avvalgano anche delle nuove tecnologie. Lo stesso Aristotele affermava che il compito della politica sembra essere cercare amicizia tra i cittadini, vale a dire creare legami sociali, ma la stessa Hannah Arendt diceva che la virtù civica è stare con le altre persone, non sopra né accanto, oppure altrove. Ecco, questi a mio avviso sono delle linee guida proprio per formare delle connessioni fra i vari enti di formazione nel territorio. Citazioni recenti e antiche che sono comunque valide e condivisibili. Ricordiamo il vostro sito viverelacittadinanza.org, dove ci sono riferimenti all'evento che ha citato, Play Music, quarta edizione quest'anno, ho sbagliato il conto, comunque sarà ottobre. Sarà nel prossimo autunno e magari avremo occasione di parlarne appunto nel prossimo autunno. Grazie Alessandra Fardini, a tutta l'associazione Vivere la Cittadinanza, alla prossima. Grazie, un saluto ai nostri ascoltatori. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.